Canto dodicesimo della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto dodicesimo. Era lo loco ove a scender la riva venimmo alpestro e per quel chi vera anco, tal ogni vista ne sarebbe schiva. Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l'adice percosse, o per tremuoto, o per sostegno manco, che da cima del monte, onde si mosse al piano, è sì la roccia discoscesa, ch'alcuna via darebbe a chi su fosse. Cotal di quel burrato era l'ascesa, e in sulla punta della rotta lacca l'infamia di Creti era distesa, che fu concetta nella falsa vacca, e quando vide noi, se stesso morse, sì come quei cui l'ira dentro fiacca. Lo savio mio in ver lui gridò: forse tu credi che qui sia il duca d'Atene, che su nel mondo la morte ti porse? Partiti, bestia, che questi non viene ammaestrato dalla tua sorella, ma viensi per veder le vostre pene. Qual è quel toro che si slaccia in quella, c'ha ricevuto già il corpo mortale, che gir non sa, ma qua e là saltella? Vid'io lo minotauro far cotale, e quegli accorto gridò: corri al varco, mentre che in furia è buon che tu ti cale. Così prendemmo via giù per lo scarco di quelle pietre, che spesso moviensi sotto i miei piedi per lo nuovo carco. Io gia pensando, e quei disse: tu pensi forse a questa rovina che è guardata da quell'ira bestial ch'io ora spensi? Or vo che sappi che l'altra fiata ch'io discesi qua giù nel basso inferno, questa roccia non era ancor cascata. Ma certo, poco pria, se ben discerno, che venisse colui che la gran preda levò a dite del cerchio superno, da tutte parti l'alta valle feda tremò sì, ch'io pensai che l'universo sentisse amor per lo quale è chi creda, più volte il mondo in caos converso. Ed in quel punto questa vecchia roccia qui ed altrove più fece riverso, ma ficca gli occhi a valle che s'approccia la riviera del sangue in la qual bolle qualche per violenza in altrui noccia. O cieca cupidigia, o ira folle, che sì ci sproni nella vita corta e nell'eterna poi si mal ci molle. Io vidi un'ampia fossa in arco torta come quella che tutto il piano abbraccia, secondo che vi ha detto la mia scorta. E tra il piede la ripa ed essa in traccia correan centauri armati di saette, come solea nel mondo andare a caccia. Vedendoci calar ciascun ristette, e della schiera tre si dipartiro, con archi ed asticciuole prima elette. E l'un gridò da lungi: a qual martiro venite voi che scendete la costa? Ditel costinci, se non l'arco tiro. Lo mio maestro disse: la risposta farem noi a Chiron, costà di presso. Mal fu la voglia tua sempre si tosta. Poi mi tentò e disse: quegli è Nesso che morì per la bella Deianira e fe di sé la vendetta egli stesso. E quel di mezzo ch'al petto si mira è il gran Chirone che nudrio Achille. Quell'altro è Folo che fu si pien d'ira. d'intorno al fosso vanno a mille, saettando quale anima si svelle del sangue più che sua colpa sortille. Noi ci appressammo a quelle fiere snelle. Chiron prese un ostrale e con la cocca fece la barba indietro le mascelle. Quando s'ebbe scoperta la gran bocca, disse a compagni: «Siete voi accorti che quel di retro muove ciò che tocca? Così non sogliono fare i piedi morti». E il mio buon duca, che già gli era al petto, ove le due nature son consorti, rispose: «Ben è vivo, e sì soletto mostrarli mi convien la valle buia, necessità c'induce e non diletto». Tal si partì da cantare alleluia, che mi commise quest'ufficio nuovo. Non è ladron, né io anima fuia, ma per quella virtù per cui io muovo li passi miei per si selvaggia strada, danne un de tuoi a cui noi siamo a pruovo, e che ne mostri là dove si guada, e che porti costui sulla groppa, che non è spirito che per l'aere vada». Chiron si volse in sulla destra poppa e disse a Nesso: «Torna, e sì li guida, e fa cansar s'altra schiera s'intoppa». Or ci movemmo, con la scorta fida, lungo la proda del bollor vermiglio, ove i bolliti facean alte strida. Io vidi gente sotto infino al ciglio. Il gran centauro disse: «Ei son tiranni, che dier nel sangue nell'aver di pigno. Qui vi si piangono gli spietati danni. Qui v'è Alessandro e Dionisio Fero, che feci Cilia aver dolorosi anni. E quella fronte, calpel così nero, è Azzolino, e quell'altro che è biondo è Obizzo d'Aesti, il qual per vero fu spento dal figliastro su nel mondo». Allor mi volsi al poeta e quei disse: «Questi ti sia or primo ed io secondo». Poco più oltre il centauro s'affisse sovra una gente che infino alla gola parea che di quel bulicame uscisse. Mostròci un'ombra dall'un canto sola, dicendo: «Colui fesse in grembo a Dio lo cuor che in sul Tamigi ancor si cola». Poi vidi gente che fuori del rio tenean la testa e ancor tutto il casso, e di costoro assai riconobbio. Così a più si facea basso quel sangue, sì che copria pur li piedi, e qui fu del fosso il nostro passo. «Siccome tu da questa parte vedi lo bulicame che sempre si scema», disse il centauro, «voglio che tu credi che da quest'altra più e più giù prema al fondo suo, infin che si raggiunge ove la tirannia convien che gema. La divina giustizia di qua punge quell'Attila che fu flagello in terra, e Pirro, e Sesto, ed in eterno munge le lagrime che col bollor diserra a Rinier da Corneto e Rinier pazzo, che fecero alle strade tanta guerra». Poi si rivolse e ripassossi il guazzo. Fine del canto 12.